Ladies and gentlemen, your DJ for tonight has spent hours setting up his lights. He's spent ages performing sound checks, and he's refrained from touching the buffet. Yet. He's keeping reasonably sober and is prepared to play just about anything you care to ask for. Get ready for a very special night and party celebration. Buonasera, benvenuti e bentrovati cari amici ascoltatori di Radio Noise e soprattutto di Transizione di Fase. Siamo tornati come ogni lunedì sera in onda alle 21.30 con Radio Noise, anche se si era detto la settimana scorsa che insomma ci sarebbe stata una replica, in realtà poi non ce l'ho fatta e quindi non potevo lasciarvi così senza una diretta, perché altrimenti come potevate stare senza? Come va? Tutto bene? Spero tutto bene. Voi che state ascoltando, intanto entrate in chat. Ciao Ne, quindi salutiamo Pirata che è appena entrato. E questo pezzo è immancabilmente dedicato a lui, anche se non è stato fatto apposta. Però questo di sottofondo che state ascoltando sono i Primus, Pork Soda. Insomma, stasera è una serata un po' di grandi classici, anche con qualche chicca, perché ci sta anche, che chicca musicale ovviamente, quindi ci ascolteremo qualcosa interessante, faremo un po' di passaggi, un po' tra un pezzo e un altro, con dei collegamenti, insomma, vabbè, un po' di cose. Beh, mi dà del terrore maledetto, ma sì, sono un terrore, ne sono fiero. Ma andiamo avanti. 31 gennaio 1956 nacque un personaggio storico della musica, che fece parte di un gruppo importantissimo, il grande The Great Rock and Roll Swindle. Hanno anche fatto un film, un documentario. Insomma, non stiamo parlando di, per chi avesse capito, non è nato Sid, colui che si faceva chiamare Sid Vicious. Ma in realtà nacque il 31 gennaio 1956 Mr. Johnny Rotten. Loro erano i Sex Pistols con Pretty Vacant, e questo era un piccolo omaggio a John Lydon, che nacque appunto il 31 gennaio 1956. Questa sera un po' di classici, come abbiamo detto. Voi siete in ascolto di Radio Noise, sono le 21.38, quindi siamo partiti da qualche minuto. E io volevo salutare un certo Purpetta 90 che era entrato in chat, che però è uscito. Se sta ascoltando, io saluto Purpetta e ti invito, Purpetta 90, ti invito a rientrare ovviamente in chat. Allora, tutto bene, la chat tace, nessuno, a parte un po' di insulti da parte di Mister Pirata, però niente, continuiamo. Allora, stasera grandi classici, ma prima di partire io volevo partire con i grandi classici, con le chicche, insomma con la puntata di stasera, che in realtà non ha nessun titolo particolare. Diciamo che il flyer si rifaceva al fatto che su radionoise.wordpress.com si faceva al fatto che insomma c'erano delle difficoltà tecniche e soprattutto delle avversità temporali che stavano mettendo un po' in difficoltà la diretta di stasera, però poi alla fine ce l'abbiamo fatta, perché non riesco a stare senza di voi, insomma, poi mi mancate eccetera eccetera, poi mi commuovo, insomma. Radio Noize Webcast, il profilo su Facebook, radionoize@gmail.it per aggiungere il contatto MSN e per scrivere l'email. E a proposito di questo, io inizio a dirlo, ma poi lo dirò anche più avanti. La settimana prossima ci sarà uno dei primi live del 2011. Più che live, ci sarà un gruppo ospite, una puntata che è stata registrata a settembre con un gruppo calabrese. Insomma, lunedì prossimo poi partiremo sicuramente da domani con il flyer, posteremo il flyer per farvi scoprire chi sono questi ragazzacci. Allora, il gruppo che era rimasto fuori scaletta la settimana scorsa nella puntata Easy Listening, ce l'ascoltiamo stasera perché meritano loro e il pezzo è bello, morbidissimo ma bello, un po' di blues, funky, soul, jazz, e chi più ne ha più ne metta. Gomez, Whipping Piccadilly. Yeah. questi ragazzacci che provengono dalla Britannia, esattamente da Southport, gruppo indie rock che nasce insomma intorno alla, agli anni 90, i primi anni 90. È un gruppo che ha avuto un sacco di fortuna all'inizio, scrisse, venne scritturata dalla, dalla Virgin con Bring It On, in cui, da cui è stato, ho estrapolato questo pezzo, Wimpin' Piccadilly. Ebbe un sacco di successo, un sacco di premi, però poi nonostante questo, stranamente la Virgin li, li cacciò fuori, insomma, e poi fecero un accordo con il cantante della Dave Matthews Band e furono scritturati da lui, insomma, e continuarono la strada con lui, tant'è che comunque stanno continuando a produrre, l'ultimo album è del 2009, loro sono partiti col il primo album in studio in realtà nel 1998, ma erano attivi da, da più tempo, insomma. La loro particolarità appunto è il fatto che mischiano queste, anche se sono definiti gruppo indie rock, in realtà non è qui, io non credo sia così, perché l'indie rock è tutta un'altra cosa, è anche molto brutto a tratti, e invece loro mischiano blues, un po' di funk, no funky no, un po' di jazz, insomma queste sonorità un po' più acustiche, se vogliamo, un po' da riva, da fiume, da stare sulle sponde del fiume, però mischiano insieme a queste le componenti elettroniche. E la cosa importante, cioè particolare, è che sono in tre a cantare e in quattro a scrivere, quindi questa è anche la forza del gruppo, insomma nessuno viene messo da parte. Frodo ha Squid Connection Reset by Peer, quindi Frodo è sparito, è caduto, insomma io spero che comunque ci stia ascoltando. E allora partiamo con i grandi classici stasera, perché è il caso, e insomma per ricordare un po' di gruppi che ogni tanto si perdono e soprattutto ogni tanto che non sempre vengono passati, ma stasera è il caso di ricordarli. Partiamo con loro e poi andremo, ascolteremo un po' di kick, un po' di personaggi strani anche, gruppi che non sono mai stati passati su Radio Noise. 21:46 in ascolto Radio Noise, loro sono gli Stone Temple Pilots, questo è Midplow. figli di un dio minore, figlio di un dio grunge minore, questi Stone Temple Pilots che sono sempre stati tacciati di essere dei fasulli, delle persone che avevano sfruttato il periodo grunge e cazzate e via dicendo, tutte queste stronzate qua, e in realtà dimostrano di avere un'attitudine rock and roll nonostante l'entre esci di Scott Weiland, che comunque ha sempre avuto dei problemi fortissimi con la signora bianca, che è una signora del terzo piano che abitava sopra di lui. Insomma, hanno avuto un sacco di problemi, quindi questo ha comportato chiaramente una serie di anche questioni interne col gruppo, insomma. E mentre la gente entra e sta ascoltando Radio Noize ed entra con queste cazzate che vengono sparate a manovella, io vi saluto, vi do il benvenuto, voi che siete arrivati vi dico di entrare in chat perché c'è bisogno di voi, insomma, per animare, e stasera la butto lì, facciamo anche qualche canzone a richiesta, un po', facciamo un po' di jukebox, tranne Pirata ovviamente che continua a schivare, però Pirata basta perché l'altra volta è stato accontentato troppo, ma stasera sarà altrettantamente accontentato, non se l'aspetta, ma è così. Rimanendo sulle stesse sonorità, niente da dire sugli Stone Temple Pilots, nel senso che sono usciti nel 2010 con un nuovo disco, c'è questa tournée che però per quanto riguarda l'Italia non ci caga di striscio, nel senso che non ci tocca proprio minimamente, purtroppo, direi purtroppo, sì, non vogliono arrivare da queste parti, ci sono delle date insomma negli Stati Uniti fondamentalmente. Si spostano un po', però niente da fare, quindi non avremo modo di, per il momento, fino a metà marzo non ci sarà la possibilità di vedere gli Stone Temple Pilots in Italia, anche se anche perché comunque non ci sono e comunque sempre via dicendo non ci sono quantamente, mi scrive Pirata, giusto, non ci sono notizie per quanto riguarda live qui in Italia. E allora noi rimaniamo più o meno sulle stesse sonorità, anche se non sono proprio le stesse. E ok, e niente, ascoltiamo un gruppo che questo fa parte del secondo disco, il primo pezzo del secondo disco, però sono dei bambini prodigio, più che altro lui, il cantante, era un bambino prodigio perché il primo disco uscì quando lui aveva 16 anni e gli altri più o meno 18-19 anni. Certo, è stato aiutato perché è nipote di un plurimega super miliardario, è uno degli uomini più potenti del mondo, però sicuramente la qualità c'era, ma questo è del secondo disco, un po' più di maturità che chiaramente si fa sentire. Silverchair. chance in me. Can't miss something, but I'll try. Nel 1997 i Silverchair dall'Australia uscirono con questo disco Freak Show, dopo un incredibile Frog Stomp che li fece diventare gli idoli post grunge, perché Freak Show, scusate, Frog Stomp uscì nel 1995 e Freak Show uscì in realtà nel 96, l'anno dopo. E loro diventarono gli idoli post grunge, perché comunque le sonorità erano ancora piene periodo grunge. Soprattutto loro erano dei ragazzini, quindi chiaramente sono cresciuti o comunque sono stati influenzati da quelle sonorità, anche se all'inizio loro iniziarono con cover delle più classiche, dai Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, eccetera eccetera. Nel 1997 uscirono con questo disco molto più maturo e, dicevo, il ragazzino Daniel Jones, nipote di un certo Rupert Murdoch, non so se voi conoscete, comunque un magnate di qualunque cosa, e hanno avuto, in realtà sono bravi, perché comunque sono riusciti a tirare fuori dei dischi molto potenti, ma soprattutto i loro live erano abbastanza energici. E poi dei ragazzini, perché lui aveva 16 anni e tenevano il palco benissimo, avevano un grande carisma, quindi comunque sicuramente meritano il successo che hanno avuto. Dopo il 1997, dopo Freak Show, nel 1996 sono iniziati a cadere in maniera incredibile, sono diventati famosissimi, hanno iniziato a scrivere pezzi per le ragazzine impazzite. Insomma, lui è diventato stranissimo, proprio anche visivamente a vederlo, era brutto, proprio brutto, brutto, brutto. 21:58 minuti, sempre in ascolto di Radio Noise, mentre la chat tace, noi continuiamo ad ascoltare. RadioNoise@hotmail.it per aggiungere il contatto MSN e per mandare l'email. Poi c'è il solito profilo Facebook, Radio Noise Webcast. A breve stanno per partire nuove trasmissioni qui inserite nel contenitore di transizione di fase, Banda Armata e poi l'altra è Mozilla Bros, quindi voi andate sul sito perché ci sono gli orari. Comunque una è di martedì e un'altra è di giovedì, non mi ricordo qual è quella di martedì, qual è di giovedì, però martedì pomeriggio e giovedì sera nuove puntate, e la prima appunto partirà da questa settimana, quindi 3 febbraio, mentre Radio Noise prossima settimana avrà ospiti un gruppo catanzarese che tra l'altro sono stati appena recensiti, il loro EP è stato appena recensito su Calabria Sounds Rock, se volete andare un'occhiata www.calabriasoundsrock.com, la nuova webzine dedicata alla scena calabrese rock e non solo, e loro sono i Nimbi, giusto per farvi capire. Passiamo da un genere completamente diverso, cioè passiamo da questo genere grunge, post grunge, a un genere abbastanza diverso. Questo è l'esordio, diciamo, dal punto di vista commerciale. Loro sono gli Incubus, come non ve l'aspettereste mai se li avete conosciuti da Morning View in poi. Mm-hmm. 1995, gli Incubus esordiscono con questo album, Fungus Among Us, che li fa diventare immediatamente famosissimi, perché comunque nel 1995, periodo di transizione, ovviamente passando musica degli anni 90, non si può che finire a parlare chiaramente del grunge. Quindi loro sono usciti fuori con questo disco che chiaramente ha fatto sobbalzare molti, perché sono usciti fuori con un crossover molto più potente rispetto a quelli dei Red Hot Chili Peppers, e poi sono tra i primi, insomma, che hanno dato scuola per quanto riguarda il rapcore e il rapcore, il crossover in generale. Poi hanno avuto dei cambi incredibili, perché adesso sono diventati gruppo, se così si può dire, commerciale, insomma, da alta classifica. Però i primi anni, i primi due album soprattutto, questo Fungus Among Us e Science del 1997, sono stati due dischi molto sperimentali, soprattutto Science, che in cui, insomma, ci sono degli aneddoti riguardo soprattutto a Science, il loro modo di comporre, soprattutto il loro modo di sperimentare dal punto di vista sonoro. Loro iniziarono con, tra l'altro Science diventò così famoso come disco che iniziarono a suonare insieme ai Korn e altri gruppi che i Korn si portavano in giro. Fecero parte del Family Values Tour, parteciparono anche all'Ozfest, Family Values Tour messo in piedi dai Korn insieme poi a Limp Bizkit, agli Orgy, che era un altro gruppo che i Korn portarono fuori. E le loro sperimentazioni riguardavano il metodo di utilizzo di molti pedalini di effettistica che molti di voi magari utilizzano, tipo un phaser che loro mettevano, lo attaccavano al muro, perché secondo loro dava un suono un po' particolare. Grande sperimentazione, soprattutto grande periodo di droga a livelli estremi, direi inimmaginabili. Poi dopo si sono dati una calma e hanno anche cambiato componenti del gruppo, soprattutto bassista e DJ, che davano una mano incredibile e davano un'impronta completamente diversa, e sono presenti nei primi due album. E poi c'è stato il periodo di transizione, Morning View, un disco un po' di passaggio, un po' moscio se vogliamo, anche brutto. Poi hanno ritrovato la loro forma in altre sonorità, però comunque grande gruppo che merita di essere ascoltato, merita di essere seguito. Noi andiamo avanti e passiamo dall'America e andiamo in Scandinavia, perché in questo periodo freddo la Scandinavia è sempre più vicina. Loro sono un gruppo che spesso vengono passati e spesso vengono nominati all'interno di Radio Noise, perché sono un gruppo da scoprire, e soprattutto hanno fatto un passaggio incredibile dall'hardcore, dal punk hardcore puro, a non so, un miscuglio di suoni sicuramente comunque aggressivi, roccheggianti, però qualcosa di assurdo e di particolare, comunque indefinibile se vogliamo. Tant'è che poi il cantante andò a finire a suonare degli International Noise Conspiracy, che fondamentalmente suonano un blues un po' eclettico. Loro sono i Refuse e questo è Hook, Line and Sinker. We'll be right back. stand below you with your increased pain. I stand below you, lift you up, increase the pain. Implosività allo stato puro, implosività di quelle belle. Io adoro i Refused perché hanno questa concezione del punk molto aperta e soprattutto i loro suoni sono molto diversi rispetto a quello che potrebbe essere una sonorità punk tipica. E ogni tanto vanno rimessi perché sono sottovalutati. Tra l'altro loro uscirono fuori qui in Italia con The Shape of Punk to Come, che tra l'altro fu, cioè, all'interno del disco c'è un estratto da una trasmissione radio in cui un DJ nomina questi Refused come nuovo gruppo elettronico, insomma, di musica house, perché appunto, come dicevo prima, la caratteristica dei Refused è quella di essere passati da un punk hardcore a sonorità mischiate, insomma, insieme all'elettronica. The Shape of Punk to Come ha veramente tutto all'interno, c'è anche un pezzo con contrabbasso e tanto di violini, e questo è molto elettronica, e questo DJ appunto li nominava parlando di questi Refused dalla Scandinavia, dall'Alta Europa, con questo pezzo house, ed è all'interno di questo disco The Shape of Punk to Come. Poi si sono fermati, in realtà è il cantante dei Refused ha messo in piedi queste International Noise Conspiracy, che sicuramente hanno delle peculiarità, però hanno sonorità completamente diverse rispetto a quelli che erano i Refused, e soprattutto hanno un genere completamente diverso che strizza l'occhio un po' alla moda del momento, alla moda dei fine anni, dei primi anni 2000, cioè un po' di indie rock, chitarrine molto veloci, serrate, stesso accordo, un poco di... Allora, mentre c'è qualcuno che dorme, io stavo leggendo in chat, c'è chi non ce la fa perché è stanco, quindi vabbè, io non posso che augurare la buonanotte nel caso in cui si dovessero chiudere gli occhi. E mentre voi che ascoltate, noi continuiamo, 22:13 minuti, sempre in ascolti Radio Noiz, puntata così a braccio proprio, una playlist decisa dal cuore e soprattutto decisa dal passato, perché per esempio questo è un gruppo che non ascoltavo da un sacco. Yeah. everybody sing along. Everything has been said before, nothing left to say anymore. But it's all the same, you can ask. Di eccessi, sicuramente quella di Marilyn Manson, del reverendo Manson, che in realtà è un nome d'arte perché è l'unione tra il nome di Marilyn Monroe e di Charles Manson, quindi due personaggi abbastanza rappresentativi, una il bene secondo Marilyn Manson e l'altro quindi la bellezza, il secondo il male. Sicuramente la vita di Marilyn Manson è stata una vita abbastanza movimentata, perché il fatto di essere anche devoto al satanismo forse è il risultato di una vita abbastanza chiusa per quanto riguarda la sua infanzia e la sua prima adolescenza, perché è figlio di un cattolico e di una episcopale, quindi voglio dire abbastanza chiuso. Poi lui visse il suo periodo di scuola in una scuola cristiana privata, dove chiaramente molte cose erano proibite, tant'è che facevano ascoltare, quindi proibivano di ascoltare determinata musica, e soprattutto facevano, gli insegnanti incutevano il terrore di Satana facendo ascoltare al contrario dischi dei Queen piuttosto che le Zeppelin, e trovando nei testi frasi come My Sweet Satan eccetera eccetera. Lui era comunque sicuramente un personaggio strano, perché ecco, la base ce l'aveva, non soltanto queste costrizioni, aveva la voglia di indagare, insomma, fin da piccola era gli piaceva, ecco, fare il detective, quindi voleva diventare un detective, tant'è che poi indagando nella vita del nonno scoprì delle riviste in cantina zoopornografiche, falli finti, film a luci rosse, insomma, quindi chiaramente quello che lui era già di base l'aiutò ad aumentare, a diventare quello che è diventato oggi. Sicuramente un musicista validissimo, un musicista devoto alle droghe come tutta la band, tant'è che l'ingresso di Twig Ramirez, che poi è stato un bassista fondamentale per il Marilyn Manson, arrivò dopo la cacciata del primo bassista, perché era veramente arrivato a livelli incredibili di uso di sostanze stupefacenti, nonostante lo stesso Marilyn Manson ne facesse uso. Comunque una vita molto movimentata. Io vi consiglio di leggere il libro, che è un po' datato, però rappresenta poi il periodo, fu scritto nel periodo di maggiore successo di Marilyn Manson, in cui fece parlare molto di sé. Siamo alla fine degli anni 90, più o meno intorno al 1998-1999, The Long Hard Way to Hell, se non sbaglio il titolo completo è questo qui. E in quel periodo scrisse quel libro, nel periodo in cui uscì un album rappresentativo proprio di Marilyn Manson, lo fece additare come satanista, eccetera eccetera. Molti suoi concerti furono cancellati in America. La PMRC, che è fondamentalmente un'associazione di genitori contro la violenza in generale, contro insomma il linguaggio esplicito e troppo aggressivo, fece cancellare una serie di concerti in America. Insomma, una vita abbastanza movimentata, però questo non gli ha evitato di continuare a produrre dischi, a diventare un produttore anche molto bravo, grazie anche alla collaborazione con Trent Reznor, cantante Nine Inch Nails. Da lì si vede anche la pulizia, diciamo, l'attenzione nella composizione elettronica, tipo questo This Is The New Shit. Adesso invece noi ci andiamo ad ascoltare, a proposito del periodo in cui uscì il libro, il primo singolo estratto da Antichrist Superstar, e questo è tradotto in italiano significa Belli Guaglioni. pezzo rappresentativo di questo album Antichrist Superstar del 1996 è appunto il singolo che portò l'album a scalare le classifiche, soprattutto perché insomma con questo album aumentò la popolarità della band, perché loro si dichiararono la loro posizione anticristiana, quindi chiaramente sollevò l'ira di molte istituzioni clericali e via dicendo. E il disco è un concept album perché contiene tre fasi e c'è la storia di un personaggio che non viene ben identificato, che si trasforma in una rockstar dal carattere distruttivo. Fondamentalmente potrebbe riguardare, diciamo, la storia di Brian Warner, in arte Marilyn Manson, però non viene troppo identificato, per cui si lascia all'ascoltatore qualunque cosa lui voglia apprendere da questo disco. Musicalmente è un disco che non può che essere identificato come un disco ben scritto, soprattutto e ben prodotto, anche perché è stato pubblicato grazie a Trent Reznor, questo Antichrist Superstar, quindi lo fece suonare ancora più bello di quanto era. Qui in questo disco c'era già Twiggy Ramirez, che poi è ottimo bassista, che fece altre collaborazioni importantissime, tra cui gli A Perfect Circle. Noi finiamo questa triade di Marilyn Manson, dedicata a Marilyn Manson, che è uscita così a caso fondamentalmente, e ascoltiamo un pezzo che viene dall'album successivo. È un album ancora diverso, ancora di più rispetto a Antichrist Superstar. Noi prima abbiamo ascoltato This is the New Shit del 2003, in cui le sonorità elettroniche sono molto presenti, sono prevalenti, e in realtà il passaggio è stato graduale, perché dal 1994, in cui fondamentalmente suonavano un rock molto oscuro, però era rock, poi piano piano si è passato all'utilizzo anche di suoni elettronici un po' sintetizzati. E invece questo pezzo è in The Mechanical Animals, che è il passaggio dal rock, diciamo, puro all'elettronica, però questo è un pezzo lento e molto bello. Marilyn Manson, Coma White. 22 e 32 minuti, 33 in questo momento, siete sempre in ascolto di Radio Noise. Saluto Ick Noise che è entrato in chat e do il benvenuto. Noi stiamo ascoltando, abbiamo appena ascoltato un pezzo di Marilyn Manson, Come a White, quindi abbiamo chiuso questa trilogia dedicata a Marilyn Manson. E volevo ricordare, la settimana prossima ci sarà una puntata registrata a settembre con un gruppo calabrese, i Nimbi. Quindi restate sintonizzati, perché insomma parleremo un po' con i Nimbi. Tra l'altro è appena uscita una loro recensione su calabriasoundsrock.com del loro demo, quindi se volete dargli un'occhiata e leggerla, così per capire un qualcosa in più dei Nimbi. E noi hail scrive Ick Noise. E noi andiamo avanti e ci ascoltiamo, partiamo un po' con le kick. Si era detto che stasera insomma qualche chicca ve la regalava Radio Noise, ve la regalava, e quindi ascoltiamo. Non hanno bisogno di presentazioni, io non li presento perché è perfettamente inutile. First! ghost of Tom Jones. Rage Against the Machine, The Ghost of Tom Joad, che è la cover di un pezzo di un album di Bruce Springsteen uscito nel 1995, e Tom Joad è il protagonista di un romanzo di John Steinbeck, The Grapes of Wrath, che è furore e in italiano è un, c'è stata anche una produzione cinematografica di John Ford. E fondamentalmente le canzoni, diciamo, di questo disco sono ambientate sul confine col Messico e quindi parlano dei problemi degli immigranti messicani negli Stati Uniti o della Seconda Guerra Mondiale vista dalla gente comune. Chiaramente i Rage Against the Machine, che sono sempre stati un gruppo attivo dal punto di vista politico, quindi non soltanto musicalmente ma anche dal punto di vista politico, chiaramente hanno preso questo pezzo e l'hanno fatto, se vogliamo, loro, perché... Se chiedi a molti del Ghost of Tom Joad, la prima cosa che ti viene in mente, soprattutto a coloro che sono figli degli anni 90, ti rispondono un pezzo di Rage Against the Machine, bellissima versione di Rage Against the Machine. Gruppo politicizzato, tant'è che loro si sciolsero dopo il terzo album dichiarando che la loro missione politica era finita in realtà, quindi non volevano continuare perché il loro messaggio era stato lanciato e quindi per loro andava bene così. Ottima cover, ci sono anche delle versioni live bellissime da ascoltare e da vedere su YouTube, che ripropongono in maniera perfetta, in maniera egregia, questo pezzo registrato, la versione in studio. E quindi da una cover passiamo ad un'altra, e questa è un'altra chicca che voglio dedicare a Pirata, se ci sta ascoltando, visto che la settimana scorsa in coro con Sasso avevano richiesto i Clutch. E noi adesso ci ascoltiamo i Clutch, che però fanno una cover dei Pink Floyd. Questa è Money. We'll be right back. Di cover effettivamente di Money dei Pink Floyd ce ne sono state veramente tante, però i Clutch l'hanno interpretata anche loro a loro modo, come hanno fatto molti gruppi, come hanno fatto anche, adesso non mi viene il nome, appena mi verrà il nome, gli Easy Double Star, che l'hanno interpretata anche alla loro maniera. I Clutch sono, nascono nel 1990 nel Maryland e affrontano, diciamo, suoni che ricordano molto lo stoner, un pochino più morbido. E quindi ho voluto dedicare questa cover a Pirata, tra l'altro bellissima cover, molto morbida, sempre sul tempo, diciamo, un po' reggeggiante, se vogliamo. È così, 22:47, sempre in ascolto di Radio Noise, radionoise@hotmail.it per aggiungere il contatto MSN, poi c'è il profilo Facebook Radio Noise Webcast, Radio Noise che è inserito nel contenitore di transizione di fase, che è la radio che ospita Radio Noise. In più, nuovi programmi stanno per arrivare: 3 febbraio Mozilla Bros alle ore 15 su transizione di fase, e poi un altro programma che è Banda Armata, che andrà in onda il giovedì sera, se non ho sbagliato, sì, martedì 1 febbraio, quindi domani alle 15 ci sarà Mozilla Brothers, e poi giovedì 3 febbraio andrà in onda Banda Armata tutti i giovedì sera alle 21:30, quindi nuovi programmi, e poi lunedì prossimo la puntata live con ospiti studio in Nimbi da Catanzaro, e quindi loro danno il via, aprono le danze per il nuovo anno dei live acustici di Radio Noise, perché ce ne saranno di nuovi, ce ne saranno altri, ritorneranno sicuramente in studio ospiti che ci sono stati nel 2010, e niente, quindi la solita programmazione di Radio Noise. Noi ascoltiamo un altro pezzo sempre dei Clutch, dall'album Blast Triant del 2004, che un certo Corey Taylor, cantante degli Slipknot, definì Blast Triant come uno dei migliori dischi che lui abbia mai sentito. Quindi voglio dire, se l'ha detto Corey Taylor degli Slipknot, ci dobbiamo fidare. Questo è Mercury e loro sono i Clutch. questa era l'introduzione al loro disco Blessed Triumph, che in realtà è un titolo molto più lungo che evito di pronunciare perché sennò facciamo notte, perché è veramente lungo e sicuramente mi si incartoccerà la lingua, quindi non lo dico assolutamente. Restiamo un po' nelle sonorità stoner perché ci piace sempre, poi quando si parte con lo stoner non si riesce ad abbandonarlo. E prima di passare a un altro paio di chicche della serata, che dire, amabilissimi Down, Learn from this mistake. I've come so close, it's almost hard to believe. We'll be right back. no junkie out there with a happy ending. It consumes you. Nel 2002, con questo secondo album, Me Down, che sono il riassunto di dei Corrosion of Conformity, dei Pantera, dei Crowbar, Super Joint Ritual, insomma ci sono personaggi importantissimi all'interno di questo gruppo, che nasce come un gruppo jam session, da jam fondamentalmente. Tant'è che il primo disco, Nola, nasce in questo modo. E tra l'altro loro iniziarono a far circolare il primo disco, Nola, nel 1995, tramite quindi una cassetta, insomma il primo demo, non era Nola, il primo demo venne registrato in una cassetta, iniziò a circolare clandestinamente, e tra l'altro all'interno della cassetta, cioè nella cassetta, non c'erano scritti sul nastro i nomi dei componenti di questa, contribuì chiaramente ad alimentare la leggenda, tant'è che Pepper Keenan, chitarrista dei Corrosion of Conformity e quindi anche componente della band The Down, racconta che durante un concerto dei Corrosion of Conformity in Scandinavia vide un ragazzo che aveva un cartello con il logo dei Down con scritto "So chi siete". E tra l'altro il primo disco, Nola, del 1995, raggiunse una fama, arrivò, diciamo, la vendita di questo album arrivò più o meno sulle 500.000 copie, quindi una fortuna, diciamo un successo inaspettato da parte dei ragazzi, da parte dei Down, che fu contribuito soltanto dal passaparola dei fan, tant'è che poi loro coniarono il nome Brotherhood of the Eternal Sleep, accorciato in Bros, fratelli. E insomma, i Down quindi rappresentano un gruppo importante nella scena sludge metal, perché comunque sono il riassunto di persone, che di musicisti che hanno fatto parte, che fanno parte di gruppi importantissimi. Il 2002 esce questo A Bottle in Your Hedgerow, che è un riferimento, il titolo dell'album è un riferimento dei versi di Stairway to Heaven delle Zeppelin, e rende l'idea, perché rispetto al primo disco, che è molto più acido, che lascia Nola, che è molto più acido, lascia la possibilità di digressioni acide, a lunghi trip, tant'è che anche i testi sono si riferiscono spesso a inni alla marijuana, insomma, e poi anche a brani intimi come Stone the Crow, che è un pezzo bellissimo, uno dei singoli di Nola. Insomma, con questo basso legno reggio loro raggiungono una fama, e però diciamo è anche il disco un po' controverso, perché nello stesso periodo succedono un po' di cose strane. Innanzitutto Phil Anselmo, cantante, che era il cantante dei Pantera, inizia ad avere problemi con la droga e soprattutto la spina dorsale. Nello stesso periodo muore il chitarrista dei Pantera, Dimebag Darrell. Tra l'altro Phil Anselmo fu accusato di essere la causa della morte di Dimebag Darrell e anche la causa dello scioglimento dei Pantera. Infatti in quel periodo i Pantera non suonavano più, ma era Dimebag Darrell suonava insieme al batterista Vinnie Paul, suo fratellastro, nei Newfound Power. Salutiamo Psylocib che è entrato in chat e noi continuiamo, e quindi dopo questa partiamo con un'altra chicca che tra l'altro porta un titolo che è molto attuale in questo periodo. Qui noi abbiamo la storia che si unisce. Partiamo dalla fine degli anni 70 fino ad arrivare a metà degli anni 90. Lui è Yellow Biafra, loro sono i Melvins e questa è Islamic Bomb. secret project at a warehouse right in town. No one here knows all the details. We just ship components out. Sell it, girl, the highest bidder. If we don't, someone else will. Third parties in third countries. You can't stop what you can't find. This is what we wanted all along. Now the arms race can go on and on. Questa collaborazione è abbastanza particolare tra Melvins di L.O.B. Afra, collaborazione che crea praticamente due gruppi, due album, e soprattutto il nome di The Gelvins, The Gelvin, per unire appunto L.O.B. Afra e Melvins. Nel 2005 hanno iniziato questa collaborazione. Questo è un pezzo preso da Platys Monograph, se riesco a pronunciarlo bene. Allora salutiamo, sì, Psilocybe l'ho salutato prima. E le parole in realtà adesso iniziano a diminuire, perché altrimenti non riusciamo a sentire altri pezzi che erano presi nella playlist. Quindi ringrazio, mi fa piacere che Ick Noise, se credo si pronunci così, sia piaciuto questo pezzo Islamic Bomb, che tra l'altro è un pezzo abbastanza attuale visto il periodo, e non dico un altro perché non mi dilungo in queste cose. Non è affar mio, lo lasciamo a Frodo, che partirà col nuovo programma, quindi lasciamo a lui questi approfondimenti tipo politico-culturali. Io sono un ignorantone che passa soltanto musica, quindi del resto non me ne frega niente. 23:11, quindi le 23:11, se noi abbiamo, se avete l'orologio soltanto sulle 12 ore e non 24, quindi 23:11 PM. E andiamo avanti con un'altra, diciamo, chicca, poi ve lo spiego dopo. Loro sono sempre i Melvins, questa è It's Show. Versione live tratto dalla, questa versione live è tratto dall'EP di Lizzy di Melvins, in realtà è nel disco Ballad. E appunto, visto che VR è piaciuto molto il pezzone, io chiedo a questo punto se lui sa dirmi se c'è un collegamento tra questo pezzo e un'altra canzone o un altro gruppo. In attesa che lui ci pensa e risponde, io vi ricordo i contatti: radionoise@hotmail.it, per aggiungere il contatto MSN, anche se ormai MSN non viene utilizzato più, ma a noi ci piacciono le cose vintage, cioè ormai MSN è diventato vintage. E per scrivere l'email, e poi Radio Noize Webcast per il profilo Facebook, per diventare amici e avere le informazioni necessarie, insomma, quello che succede di settimana in settimana su Radio Noize. E poi radionoize.wordpress.com. Quindi io richiedo a VR se ha trovato il collegamento tra questo pezzo dei Melvins e un altro pezzo, un altro gruppo. Non arriva nessun tipo di risposta, non so se ci sta pensando oppure non ha ascoltato, non lo so. Quindi vabbè, visto che non è che possiamo star qui, anzi, facciamo così, facciamo questa cosa. Allora, io passiamo un altro pezzo che non c'entra assolutamente nulla con il collegamento. Allora io richiedo a VR se mi dice il collegamento tra questo pezzo dei Melvins, It's Shoved, e se c'è un collegamento con un altro pezzo di un altro gruppo, insomma. E nel frattempo lasciamo il tempo a VR di pensarci. Ascoltiamo i Korn con Thoughtless. Dopo questo pezzo dei Korn Touthless da Untouchables, io l'ho messo perché sto facendo un'opera di convincimento nei miei confronti per cercare di farmi piacere i dischi dei Korn dopo Follow the Leader, ma non ce la faccio, diciamo che questo pezzo è carino. Comunque, riguardo quindi alla domanda che ho fatto prima, VR che ha risposto, insomma, gli ho dato il tempo con il pezzo di pensare, effettivamente ha ragione, cioè il pezzo, quello dei Melvins, ricorda, cioè, o meglio, è proprio questo pezzo qui, voglio dire. Eh sì, copioni, Nirvana, sì, ci sta che sono copioni, quindi facciamo un applauso al VR che ha scoperto, ha capito immediatamente, ma d'altronde, voglio dire, te conosceva un pezzo dei Melvins che magari è uno di quelli meno conosciuti, voglio dire, nella discografia dei Melvins che è enorme, è riuscito a scovare praticamente immediatamente l'assonanza, è chiaro che non poteva che che è tu Psilo, sei arrivato dopo, te lo fai dire da Ick Noise. No, da VR, scusa, mi sono confuso. Allora, siamo giunti quasi alla fine di questa trasmissione, di questa puntata di Radio Noise, che è partita con un augurio di buon compleanno a John Lydon, cioè Johnny Rotten, cantante dei Sex Pistols. E noi inseriamo in scaletta un pezzo che non c'era, perché in realtà avevo scelto due pezzi dei Korn, tratti uno da Issues e un altro da Untouchables, ma non ce la posso fare. Dopo aver ascoltato questo pezzo di Nirvana, mi viene in mente più o meno sonorità di quel periodo, mi vengono in mente loro. VR dice che è appunto Ballad, il disco dei Melvins, a cui ho estrapolato in realtà una versione live di It's Show, è una specie di Bibbia, non lo dice a caso, anche perché è il disco che risulta rispetto a quelli precedenti molto più lungo, cioè i pezzi, le canzoni sono molto più lunghe. E dopo questa, diciamo, ascolto così improvviso dei Jesus Lizard, che non erano presenti, io tra l'altro credo di aver scovato la persona che si cela dietro il nickname VR, e con questo vi saluto, vi do appuntamento a lunedì prossimo, ospiti in studio Nimbi, puntata registrata in una serata settembrina, una calda, anzi una piovosissima serata settembrina, quindi con i Nimbi da Catanzaro esploreremo le loro sonorità, esploreremo le loro idee, veramente una puntata, perché ovviamente io l'ho già vissuta, chiaramente, una puntata molto cerebrale, e ascolteremo qualche pezzo loro tratto dall'EP con non mi ricordo il titolo, comunque andate su calabriasoundsrock.com e c'è la recensione del promo dei Nimbi, e niente, quindi vi saluto con questo pezzo, vi do appuntamento a lunedì prossimo, e vi saluto con questo pezzo che io non ascoltavo veramente da un sacco di tempo, tratto dalla colonna sonora del Corvo, loro sono i Machines of Loving Grace. Vi do la buonanotte, grazie a tutti di essere in ascolto e restate in onda su Transizioni di Fase, e non dimenticate Radio Noise ogni lunedì sera alle 21:30. ciao. don't want to believe no more. No more. No more. Who got the tenement? City of souls, give me a town and a week, give me a dollar. Stronzo, signore. Questo l'ho capito. Come si chiama? Stronzo, signore, è il suo nome maggiore.